sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Presidente del Consiglio Monti da Tokyo, sul lavoro il paese è con me, dice il monito dell'Unione Europea, la riforma non perda slancio in Parlamento. Il Papa a Cuba, oggi la messa nella capitale, poi l'incontro con Fidel Castro. Un uomo si dà fuoco davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate a Bologna, è in condizioni gravissime. Calcio scommesse, si costituiscono due degli zingari coinvolti nelle partite truccate, a San Siro tutto esaurito per la sfida più attesa dei quarti di Champions, Milan-Barcellona. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Torna a parlare di lavoro e non solo il presidente del Consiglio Monti, che prosegue il suo viaggio in Asia. Da Tokyo il collega del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. È la prima volta che lo dice con questi termini e con questa forza. Gli italiani sono migliori della loro classe politica. A Tokyo il presidente del Consiglio Monti parla della riforma del mercato del lavoro davanti ai rappresentanti del mondo finanziario ed economico. Ne parla anche con il ministro delle Finanze e con il premier Noda. Gli italiani, dice, ritengono che la riforma del lavoro sia necessaria. Anche per le pensioni ci sono stati problemi, ma alla fine è passata. Lo stesso succederà anche per la riforma del mercato del lavoro. Sono fiducioso. Parole che creeranno sicuramente problemi nel mondo politico, ma che Monti si è sentito di dire qui mentre cerca di attirare nuovi investimenti sull'Italia. Ha parlato di come l'Europa sta superando la crisi dell'Eurozona e dell'Italia che da parte del problema è diventata una parte della soluzione. Questa crisi, ha detto Monti, rafforzerà l'Italia e l'Europa. Abbiamo in comune lo sforzo per il risanamento di bilancio e il risanamento finanziario e anche al tempo stesso per una maggiore crescita. Nel caso dell'Italia questo sforzo viene condotto sia in primo luogo all'interno del Paese sia con un'azione costante e tenace affinché l'intera Unione Europea si metta con sempre maggiore decisione su questa strada. Ma come attirare più investimenti in Italia? Occorre continuare a fare, ha detto Monti, quello che l'Europa e l'Italia stanno facendo e cercare di far capire ai nostri interlocutori quali sono i nostri sforzi. E queste dunque le parole di Monti nel suo viaggio in Asia, in particolare questa mattina a Tokyo, nel racconto del collega del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi. E sul lavoro arriva anche la sollecitazione della Commissione Europea perché la riforma abbia una rapida approvazione in Parlamento. L'Italia dovrebbe varare la riforma del lavoro rivedendo alcuni aspetti della legge sulla protezione dell'impiego e sul suo frammentato sistema di sussidi alla disoccupazione. E il testo approvato dal governo ha l'ambizione di affrontare le rigidità della protezione del lavoro, questo in una nota della Commissione. E sul tavolo del dibattito politico italiano anche l'accordo fra i partiti che sostengono l'attuale governo sulla riforma elettorale. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, soddisfazione con qualche freno nella maggioranza sulla legge elettorale per il PDL, interviene Ignazio La Russa, si va verso il bipartitismo europeo con premio di maggioranza, correranno i partiti invece delle coalizioni, dice La Russa. L'accordo su un testo definitivo ancora non c'è, sulla modifica del porcellum è stato il PD a voler accelerare. Da porcata a vaccata si lamenta Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, che chiede ai partiti di venire alla Camera per discutere il sistema di voto immediato. La replica di Marina Sereni del PD, sento toni volgari da chi non voleva il porcellum, ma l'incontro di ieri è stato positivo anche se non c'è ancora un testo condiviso, ma chi si lamentava della democrazia populista di Berlusconi adesso urla contro la democrazia dei partiti. Nella Lega Roberto Cota non entra nel merito ma contesta il metodo, c'è una maggioranza diversa da quella che ha vinto le elezioni e che sta facendo altro rispetto a gestire l'emergenza. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E polemiche sull'ex tesoriere della Margherita Lusi, che è tornata a parlare con i PM chiamando in causa i vertici del partito. Ha risposto per 6 ore alle domande degli inquirenti romani ed è uscito dagli uffici di Piazzale Clodio solo in tarda serata. Un lungo interrogatorio, quello nel quale Luigi Lusi ieri ha tirato in ballo i vertici del suo vecchio partito, al quale, secondo l'accusa, avrebbe sottratto in maniera indebita oltre 20 milioni di euro. Ai PM l'ex tesoriere della Margherita ha raccontato quello che in alcune interviste aveva già lasciato intendere, e che cioè quei soldi sarebbero finiti anche nelle tasche di altri importanti esponenti del suo partito, fra i quali ci sarebbe stato un tacito accordo per la spartizione dei rimborsi elettorali. Il suo ruolo sarebbe stato quello di garantire quell'intesa e distribuire denaro ed assegni in bianco alle varie correnti. Le ville e gli appartamenti intestati a suo nome sarebbero invece investimenti fatti per conto della Margherita, ha spiegato ancora Lusi, secondo il quale poi anche le spese folli con la carta di credito del partito che gli vengono contestate non sarebbero state effettuate solo da lui, accuse pesanti alle quali al momento gli ex vertici della Margherita non hanno ancora replicato. A parlare per ora è solo Titti Madia, legale della Margherita, che ha detto di ritenere del tutto illogico che i leader del partito sapessero e approvassero ruberie ai loro danni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Raggiunto nella notte l'accordo sullo stabilimento di Alcoa Porto Vesme in Sardegna, ritirati i licenziamenti, assicurata la continuità industriale almeno fino a fine ottobre. Se poi si faranno avanti aziende interessate al sito, la continuità sarà assicurata fino alla fine dell'anno. Ora però bisogna costruire le condizioni di competitività per la cessione, sottolineano CGIL, CISL e UIL. Costo dell'energia accessibile e di infrastrutture. Franco Barbia, il segretario territoriale della FIAM CGIL del Sulcis, sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. È una buona base per fare un ottimo accordo quello, se no comunque dentro quell'accordo è contemplata comunque la chiusura. Si parla di 3-4 offerte sul tavolo, anche se c'è chi dice che tra queste 3-4 offerte solo una potrebbe essere davvero valida. È reale, è reale quello che ha appena detto lei. Possono esserci 10-20 offerte, 30 offerte, se lo stabilimento non ha indotto gli strumenti che servono per essere competitivo, può essercene una, 20 o 100, è come che non ce ne siano nessuno. Alcoa non sarebbe mai voluto andare via se avesse trovato un governo o una politica industriale in un paese dove invece non c'è, inesistente da un ventennio. Massimo impegno da parte della Regione Sardegna, assicura il presidente Ugo Cappellacci. È veramente un passo avanti straordinario, ancora non è il risultato finale, ma richiede un percorso anche complesso, però è una condizione essenziale per poter superare e arrivarci alla conclusione. Le infrastrutture e il costo dell'energia sono elementi chiave per far sì che qualcuno si faccia avanti in modo serio. Direi che pensi agli interessati che ci sono, ovviamente vorranno verificare che ci siano delle condizioni di contesto che rendano quella produzione sostenibile. Queste passano prima di tutto attraverso un costo dell'energia che sia competitivo. Ci sono alcuni provvedimenti che dipendono sia dall'Europa, ma poi dalla determinazione, dalla capacità del governo nazionale di mettere in campo ogni massimo sforzo, che dovranno essere realizzati nelle prossime settimane / mesi. Ora una vicenda davvero inquietante che arriva da Bologna. Un uomo si è dato fuoco davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, l'episodio è accaduto questa mattina verso le 8:15. Un uomo, un italiano di 58 anni, si è dato fuoco dentro una vettura parcheggiata davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. L'uomo è al momento ricoverato al centro Grandi Ustionati di Parma dopo un primo intervento effettuato all'ospedale maggiore di Bologna. Ha ustioni su tutto il corpo ed è gravissimo. A spingerlo a questo gesto estremo sarebbero stati dei problemi economici. Il movente è dedotto dal contenuto di 3 lettere lasciate nella vettura, una di queste indirizzata alla commissione tributaria. L'uomo fa riferimento a pendenze fiscali, sembra che si scusi, dice di aver pagato le tasse, annuncia quindi l'intento di andarsene. Così però purtroppo non è stato, avvolto dalle fiamme è uscito dalla vettura parcheggiata in via Nanni Costa. Uno straniero ha cercato di salvarlo, contemporaneamente alcuni passanti hanno chiamato la polizia municipale impegnata già in zona. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Avrebbe ricevuto dagli indranghetisti del clan Lampada a Milano almeno 71.000 euro. Arrestato Giancarlo Giusti, GIP del Tribunale di Palmi. Notti in albergo ed escort in cambio della sua disponibilità nei confronti del clan. Così sarebbe stato ripagato il jeep di Palmi Giancarlo Giusti, arrestato su ordine della Procura di Milano. Il giudice calabrese è accusato di corruzione con l'aggravante di aver agevolato la mafia. Giusti era già stato sospeso dalle funzioni di giudice dopo essere stato coinvolto nei mesi scorsi nell'inchiesta condotta dalle Procure di Milano e Reggio Calabria sulla Cosca Lampada. In quell'occasione è emerso che il giudice si recava spesso nel capoluogo lombardo, dove trascorreva la notte in hotel di lusso accompagnato da escort, e i soldi per pagargli l'hotel e la compagnia sarebbero stati prelevati dalle casse del clan. Secondo l'accusa, Giusti avrebbe infatti ricevuto almeno 71.000 euro dai Lampada, e d'altra parte lui era molto vicino al capocosca Giulio Lampada, tanto che durante una telefonata intercettata il magistrato dice al boss: il mafioso dovevo fare, non il giudice. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dovrebbero essere ascoltati venerdì prossimo a Cremona per l'interrogatorio di garanzia i due cittadini croati che si sono costituiti questa mattina. Componenti del gruppo dei cosiddetti zingari coinvolti nell'inchiesta della Procura di Cremona sul calcio scommesse, su di loro pendeva da giugno dello scorso anno un'ordinanza di custodia cautelare. E nel Viterbese, nella notte, una nuova rapina in villa. È in coma irreversibile Ausonio Zappa, 81 anni, docente universitario di Viterbo. Lo hanno ridotto così i rapinatori che sono entrati nel cuore della notte nella sua casa e, dopo averlo minacciato, lo hanno colpito col calcio di una pistola e con un bastone. Per ora ci sono tre fermi. Si tratta di tre romeni che ora sono al comando provinciale dei carabinieri di Viterbo per essere interrogati dal pubblico ministero. Le condizioni dell'uomo sono drammatiche. Sull'aggressione indagano i carabinieri di Viterbo. I rapinatori avrebbero rubato solo il portafogli. Intanto oggi la Polizia di Stato di Alessandria ha eseguito provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di cittadini italiani ed albanesi, ritenuti responsabili a vario titolo di diverse rapine. Colpivano indistintamente negozi e case. Tra gli arrestati anche due cittadini albanesi, già detenuti perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Rosa Vivalda, avvenuto lo scorso dicembre nel corso di una rapina. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Monti da Tokyo sul lavoro, il paese è con me, il monito dell'Unione Europea, la riforma non perda slancio in Parlamento. Un uomo si dà fuoco davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate a Bologna, è in condizioni gravissime. In questa seconda parte di GR24 ripartiamo dalla visita del Papa a Cuba. La messa nella Piazza della Rivoluzione a L'Avana chiuderà nel pomeriggio italiano la visita del Papa sull'isola. Ratzinger dovrebbe anche incontrare Fidel Castro prima di rientrare in Italia, come confermato dallo stesso Castro. È uno dei viaggi più difficili del pontificato di Benedetto XVI, quello a Cuba, almeno sotto il profilo diplomatico. Ogni discorso, ogni gesto è frutto di una riflessione approfondita, di una mediazione, e così Ratzinger avrebbe voluto incontrare dissidenti e tuttavia non lo farà. Il regime su questo punto è stato categorico e anche i vescovi cubani hanno preferito non insistere. Nessuna debolezza comunque verso un regime la cui iniquità è stata evidenziata con discorsi e parole inequivocabili, così come i riferimenti ai diritti violati sono stati molto decisi. E d'altro canto, peraltro, non è un mistero che la Santa Sede condanni anche l'embargo americano, ritenuto non efficace e anzi dannoso per la popolazione. Dopo la messa nel pomeriggio italiano, che chiuderà ufficialmente il viaggio, Benedetto XVI vedrà con ogni probabilità Fidel Castro in forma privata, un colloquio che dovrebbe affrontare tuttavia solo questioni di tipo spirituale. Si parla tanto della conversione del leader Massimo. Nell'incontro con il fratello Raul, invece, Ratzinger ha chiesto un maggior ruolo della Chiesa sull'isola, auspicando che il Venerdì Santo diventi una festività, così come lo diventò il Natale dopo la visita di Wojtyła nel 98. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto il 27enne tibetano che lunedì si era dato fuoco durante una protesta anticinese a Nuova Delhi contro la visita del presidente Hu Jintao. Il giovane era ricoverato per ustioni su circa il 90% del corpo. Damasco accetta il piano per la pace presentato da Kofi Annan, inviato dell'ONU in Siria. Un piano in 6 punti scritti e uno taciuto, ma significativo. La comunità internazionale rinuncia infatti a chiedere le dimissioni del presidente siriano Assad. Perché? Laura Bettini l'ha chiesto a Gabriele Iacovino, analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Per trovare trovare un accordo all'interno della comunità internazionale, la condizione sine qua non imposta dalla Russia soprattutto e anche dalla Cina è che qualsiasi iniziativa delle Nazioni Unite non preveda un cambiamento di regime all'interno della Siria. Per quanto poi riguarda la transizione o la possibile transizione, ancora non vi è un accordo all'interno della comunità internazionale. Posto in questi termini, quindi il piano Annan ha speranze, diciamo? Poiché non vi è una forza internazionale in grado di far rispettare anche quel cessate il fuoco che il piano di Annan prevede, tutto dipenderà dalla volontà del regime di implementarlo o meno. Finora le pressioni internazionali dal punto di vista economico e dal punto di vista politico non hanno funzionato, anche perché poi in realtà non vi è una reale alternativa politica al regime di Assad e quindi anche in questo caso la comunità internazionale, gli stessi Stati Uniti, non sono riusciti finora a trovare e a poter proporre un'alternativa ad Assad. Poi dobbiamo sempre osservare il tutto dalla prospettiva che comunque la Siria è un contesto geopolitico e geoeconomico molto più complesso rispetto per esempio a quello che è stata la Libia. Il Sud Europa emigra in Germania, si fugge dai paesi in crisi. In Germania il 2011 è stato un anno record per l'immigrazione, con un nuovo fenomeno, l'aumento dei flussi di immigrati dal sud dell'Europa in crisi. Il saldo migratorio totale, entrate meno uscite da tutti i paesi, ha toccato 169.000 unità, con un aumento rispetto al 2010 di 100.000. E se Polonia, Ungheria e Romania hanno la testa della classifica, da Grecia, Spagna, Portogallo e Italia si registra per la prima volta un netto incremento di migrazione. Nei primi sei mesi del 2011 gli arrivi dalla Grecia sono cresciuti dell'84%, dalla Spagna del 49%, dall'Italia del 22% e dal Portogallo del 21%. La tendenza è chiara, la crisi morde il sud del continente mentre la Germania continua a crescere, anche se quest'anno è previsto un rallentamento. E per tenere acceso il suo motore ha bisogno di lavoratori specializzati dall'estero. Il tasso di disoccupazione giovanile è una frazione di quello della periferia dell'Europa. L'attrazione del modello tedesco è testimoniata da un altro record, le iscrizioni al Goethe-Institut, a più 7% nel mondo, con punte del 35% in Spagna e 20% in Portogallo. Roberta Miraglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le donne ai vertici delle aziende farebbero aumentare i rischi, lo dice uno studio tedesco. Controordine. Non è vero che le donne al comando sono più prudenti. Tutt'altro. Se la banca apre le porte del consiglio di amministrazione al gentil sesso, i rischi aumentano. Lo stesso risultato lo si ottiene se al vertice cresce il numero di giovani dirigenti. Non sono frasi campate per aria. Sono il frutto di uno studio commissionato dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca, condotto su tutti gli istituti di credito della madrepatria in un arco temporale che va dal 94 al 2010. Dunque, va in pezzi l'immagine della donna manager meno propensa ad assumere pratiche rischiose di business rispetto al collega uomo, colei che avrebbe dovuto salvare il capitalismo dall'avidità e dal cinismo. I ricercatori spiegano che questo risultato potrebbe essere dovuto soprattutto al fatto che le donne hanno meno esperienza dei colleghi uomini. Ma allora non se ne esce, perché se non si permette alle signore di farsi le ossa, non impareranno mai. Detto questo, sebbene la Buba sia la committente del rapporto e lo abbia pubblicato, ha anche dichiarato che i risultati non rispecchiano necessariamente le vedute dell'istituto o del suo personale. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dallo studio tedesco sulle donne a quello del Censis sugli over 50 italiani, secondo cui il governo Monti è una medicina necessaria e i partiti politici sono in caduta libera. Elisa Mann, responsabile del settore cultura del Censis, al microfono di Adriana Fracchia. Il governo Monti viene visto come un governo necessario, ma che segna comunque il fallimento della politica. Lo vedono come una soluzione tecnica transitoria, ma accettano con, non dico con entusiasmo, ma con convinzione il fatto che il governo Monti sia legato in qualche modo al riferimento europeo. Anzi, sono favorevoli a un governo europeo, come se gli italiani intervistati da 50 e più e dal Censis avessero in qualche modo la consapevolezza piena della gravità del momento. Stato, anche se poi chiedono a gran voce la patrimoniale, cioè sono disponibili ai sacrifici, ma vogliono poi una forma di giustizia sociale e quindi una forma di patrimoniale. Il rilancio della politica passa attraverso soprattutto le nuove forme di democrazia diretta e di rappresentanza, quindi dalle associazioni alle reti su internet, alle reti di genere, e credono molto, e questo è un dato da sottolineare perché stiamo parlando di adulti dai 50 ai 65 anni, nelle nuove forme di democrazia diretta. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Nessun dentista lo ammetterebbe, neppure sotto tortura, ma il fenomeno esiste, tanto che Anna, che lavora da 10 anni come assistente di un blasonato odontoiatra romano, ce lo racconta con tanto di particolari. Stiamo parlando dell'oro usato per le otturazioni, che a volte il dentista consiglia di togliere e sostituire con amalgama più moderni, altrettanto resistenti e meno visibili. Così, racconta Anna, si procede all'estrazione. L'oro rimosso rimane sul piattino del dentista, che lo vende a qualche laboratorio orafo con piacere. Tutti i passaggi, si badi bene, esentasse. I dentisti sostengono che quello che viene tolto viene buttato via, ma non è così, dice Anna, la quale spiega che il fenomeno è molto diffuso e che il dentista dove lei lavora fa 100-150 grammi d'oro puro al mese, anche qui senza tasse. D'altra parte devono arrotondare, nonostante il giro d'affari del settore, dice l'Agenzia delle Entrate, sia di 17 miliardi di euro l'anno. Stando alle dichiarazioni dei redditi, i dentisti guadagnano meno di 50.000 euro lordi l'anno, più o meno come un impiegato di medio livello. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio, tutta l'attenzione oggi è per Milan-Barcellona, la sfida più attesa dei quarti di Champions. Dario Ricci. Sì, buongiorno, 80.018 spettatori, San Siro tutto esaurito per questa sfida tra Milan e Barcellona, che vale almeno metà della semifinale di Champions in attesa del ritorno del Camp Nou. Le previsioni sulle formazioni: il Milan rinuncia per forza all'infortunato Thiago Silva e a centrocampo allo squalificato Van Bommel. In attacco Allegri si affida a Ibrahimovic e a Robinho e alle incursioni di Boateng. A centrocampo proprio il ballottaggio invece tra Seedorf ed Emanuelson. In difesa dovrebbe farcela Nesta, quasi certamente al centro della difesa a fianco di Mexes. Per il Barcellona, per Pep Guardiola, il dubbio è lo schieramento difensivo con 3 o 4 giocatori. In attacco invece ci sarà sicuramente l'ex udinese Sanchez. Quasi inutile dire che tutti i riflettori saranno sui due protagonisti più attesi, Zlatan Ibrahimovic e Lionel Messi, lo svedese grande in campionato, non sempre altrettanto grande in Europa, la pulce argentina, 3 volte consecutive pallone d'oro, spesso protagonista proprio nei grandi appuntamenti. Staremo a vedere se Ibra riuscirà a invertire la tendenza. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra proprio uno svedese, Jonas Eriksson. Per il momento è tutto. E grazie a Dario Ricci. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.